Hai deciso tu, l'hai deciso tu, di poggiare i piedi sulla roccia. L'hai voluto tu, l'hai voluto tu, confinare il mare in una goccia. Hai levato Dio via dal cuore mio, hai puntato un sole alla mia faccia. E luna è sopra i fari, come dubbi esistenziali. Hai piccato tu, l'hai piccato tu, l'odio che mi incendia la foresta. Se l'hai spento poi, con i giorni bui, l'hai sottratto al tempo che mi resta. Presto che ne andrai, beh mi lascerai, senza più l'ausilio di una torcia. A testa in giù tra gli alberi, sotto piogge torrenziali che tu sai, forse asciugherai. Fango sulle gambe, gesso sulle ali stanche, ogni passo anche il più semplice si trascina lento fra noi. Danze sulla pece, piroette sulla croce, quasi quasi un po' mi piace questo sfinimento che dai. Ma per quieto vivere preferisco non morire, tu lo sai, se permetterai. Hai deciso tu, lo hai deciso tu, di spalmare il cielo su una foglia. L'hai disteso poi, con gli sguardi tuoi, mai succhiato sale alla mia voglia. Hai scelto la via, della vita mia, m'hai lasciato solo l'altra sera. E vento sulle spalle, senza l'ombra di uno scialle, se vorrai, forte soffrirai. Se tu vuoi.